cucciola. Io sapevo. E beh, allora. E beh, tu. Qui, buonasera. Sto preparato per andare al volo. Giulia, la testa. Ma hai detto che sono tecnico di personale? Sono tecnico di personale, banda alla lira. Ma no, lo facevo io. No, dopo la come prima. Ah, ma voglio la testa. Se ne muoiono. Una testata a Sicilio e la testata da Siua. Ma non è che non è un bello di queste cose. Li stanno facendo. Ah, li stanno facendo. E perché non l'hanno fatto fare a gente che... E perché? No, sto aprendo le scale. Ah. Cappa. Comunque, boh, non capisco perché anche lascia perdere meglio due dì e cosa. Ma anche per te che c'eri da un po' con quelli lì, ma perché non te l'hanno fatto fare anche a te? Il corso, tutto quello che ci voleva. Cioè, io non capisco veramente. Antincendio è contro la Stewart. Contro la Stewart vuol dire allora che puoi andare anche nelle discoteche come fare buttafuori e tutto qua, nelle serate. Vabbè, non ti chiamo né a te. E io devo andare. Ah, ma non male, cavolo. Voi mi riesco a andare, non mi dispiaceva. Ho detto che tu ce l'hai quel corso. No, io ogni anno ci sono con loro, ogni anno sono lì. Non lo so, ma da Alghero devi andare. Sì, dipende, da Alghero se no c'è a Urbia, dipende dove mettono le squadre. Ecco, a Sassari c'è. Sassari non lo facciamo. Noi facciamo anche Alghero, l'Alghero e Sassari facciamo come audio e luci e tutto. Dice che hanno noleggiato un impianto grosso per farvi Gabue. Gabue, dai, Salvato, ma tu, che io adesso mi preparo, tanto alle 5 ci devo uscire a fare lui, a fare servizio, no? Vabbè, dai, ciao, ci risentiamo, come sempre a bomba, sì. Sì, è una bomba, ciao, che sempre che sento apparato, si forte, però sempre sento apparato. Sto forte perché c'ho l'antenna alta pure adesso. No, già ci porta su, tranquillo. Sento già Madrid di Valla. Ma pure perché mi è pure l'antenna alta, va, quindi dà tutto il meglio per sé, c'ho 4 metri di palo adesso. E alzata. Già un grido via. Adesso va bene, con la lampa da tutto sto usando. C'è bene, ma è quel sol. Oh, normalissimo. No, c'è bene, solo che la modulazione rimane sempre un malato, lo capisco. soffre davvero me oggi, minchia cazzo. Sì, a chiarire tutti cazzo bravo, cazzo veramente, sei grati, vita. Ehi, è capare notti cazzo, ero tremendo io. La camera più grande che ho, la camera da pranzo. Ok, dai. Vabbè, anzi, dai, ti saluto, dai, spero che possiamo stare mai più là. Ciao, ci risentiamo. Tanto. Ormai prendi il casino. Ah, ne avvenimmo il casino, ah, gappo. Andiamo. È poco di aburotto, guarda. Ah, quello. Figlia. Aiuto, non mi metto la portante, ne ha finito il baccasino. Però mi ha Natalino. Mattami. Perché io ci sono incavolato. E cosa c'è Natalino? Chi sono passaggio di Lucani che ha musicato, Lucani mio mi ha turrato a musicare oggi. Sì. E oggi ho preso la Sredina. No, vieni Marcello, vieni pure, stavamo appunto. Però se lo trovo in corso Trinità picchia lui, lì con una vedra su, se a Lucani vi lui fare, perché glielo sparo adesso, glielo ho detto a me. Se ti trovo qua, ti sparo, a te e al cane. Come fa? Che bastardo, cioè, ma quando mai dovrebbe pagare lui la cosa, basta chiamarli le cose, perché lui che sei pericoloso il cane, deve tenere legato, bastava chiamarli le guardie. Sono andato a denunciare ai vigili urbani e hanno detto che non è reato. Vabbè, non è reato, allora la giustizia me la faccio da solo. Se lo trovo in corso Trinità ricudo una susa al gatto che gli posso fare 6 mesi di fidari. Ma anche su di graziato, un cane. Se ridicava a due. Ma vai di tu, in occhi no, non va bene, te lo tieni al guinzaglio, perché te lo crepo. E non ha compresa ancora, no? Se domani a mangiare una ciappa in corso Trinità che ha detto che si rabbiglia a puntiglia, ha detto, secondo Luca Budello. Vedrai, io se lo trovo col cane, cosa gli faccio io a quello lì? Ah, vero, a puntiglia. Ma davvero, è davvero, secondo Luca Busuio. Vedrai che io li posso fare 6 mesi di fidare a Edu, da voi venimo a vedere. Ti faccio un cane che non riesce neanche a mettere la zampa. L'ho portato al veterinario, ho speso 100 euro in medicina e non lo so io. Vabbè, da farò di vedi, non ve ne conta. Io non l'ho visto neanche il cane, ce l'aveva mia moglie il cane. Non c'ero io che stavo facendo commissione. Bastardo, ma veramente, ma la gente è veramente stronza. È stronzo e delinquente pure, ma io vedrai che lo tratto da delinquente, lo tratto. Perché io li so trattare i delinquenti come quello. E vedrai cosa riposto. Non va bene che il cane vada a morsicare, cioè, ma sto scherzando. Cioè, un cane te lo tenere legato, se no cazzo te lo riaccolto. E infatti, cosa vuoi fare? Gli metti la museruola se diventa cattivo. No, bisogna mettergliela. Già, così. Cosa vuoi che ti dica? Non me ne ha voluto vendere di cose. Perché? Perché ha detto a sentire il veterinario prima. Allora. Mi ha detto, tanto domani dobbiamo tornarlo a portare al veterinario di Napoli. Ecco, con la cucina, i dolci di Natale. Ce l'ho trovo lì in consulta, sai che a fine di posso fare? Sì, posso fare. Chi è tu che è Rugano? Ma che c'è inventato Natale, poco ci vuole. Sì, gente stupida, Adesso domani mattina, come ricevo la relazione del veterinario, devo andare a fare l'esposto ai vigili urbani. E poi la devo mandare a un amico mio, che è guardia ecco zoofila. Vedrà che vi posso ritirare un cane, e subito. Ma appunto, cioè, ma componenti se o cosa? Cioè, non andate noi che ci cose, l'abbiamo fatto ritirare sì. Che morsica cazzo anche le persone, non solo che i cani, questo cane. È un cane di chi? Di Manni, Maru. L'altra volta mi è costato 1500 euro il morso di quel cane e non me ne avevano voluto dire chi era. Però la conosce un padrono. E quando lui vede con un cane, vedrà a venire a farsi su cane, va. Ma se lo conosci allora deve andare a rubare le scatole. Ma domani sto andando ai vigili urbani a fare l'esposto, poi devo dare la relazione a questo amico mio che è guardiecco zoofila. Siccome non deve avere neanche il microchip questo qui, ogni tanto gli cucino una bella mazziata da 1000-2000 euro. Voglio vedere se gli conviene. Ma lui gliel'hanno reso. Comunque il cane così non lo può tenere se è feroce, se è cattivo. Lui deve tenere il messaggio. Dice che ce l'aveva al guinzaglio mia moglie, purtroppo l'ha morsicato lo stesso al cane mio. E diciamo ce l'ha pigliato un cazzo vicino di Biumonimi. Meno male che l'ha salvato la pettorina, se no era morto il cane. Allora bisogna scevitarlo questo cane. Io ci abitei a Rugane e a Rubadrono Buru, perché se lo vedo qui vicino è fottuto. Glielo ho detto mio, glielo faccio. Lui qua non ci deve più mettere piede, perché se mette piede in corso di unità, mi ci abitei già ed è a Rugani. Credo da dito che fa un figlio a torra. Sì, sei un delinquente, uno spacciatore, sta entrando e uscendo da galera sempre. La migliore commessa di Milano. Però questa volta gli costa cara, perché gli c'è bisogno, giumi. Ah, sì. Ciao, Lucia. Perché bisogna dimenticare che se lo vedo col cane in corso di unità, non ne biglio ragione. Poi quando sono nervoso ho ragione, non ne biglio assolutamente. Quindi, chissà che lì ci si biglia. Ah, ti dà un glielo tiro, glielo ho detto mi, e glielo sparo il cane. Non hai capito ancora. Chiuso Gavviru. Cazzo. Se lui mette piede in corso Trinità, vedrai che fine fa. Se, se i vigili urbani mi hanno detto che non è reato, cazzo, allora ribaro di musica tutti i cani, i ribassoni che ribare le biadi su cani, non penso proprio, no. Ma cosa non è reato? È un reato. I vigili hanno detto di no, perché stamattina sono andato a fare la denuncia e hanno detto manco a denunciarlo, non fa, perché cosa ne ripigli? Se non c'ha niente, niente ne le puoi prendere. La puoi dare di bagara, Bucardi e tutto, Buffonelli sì. Faccio l'esposto, uno ai vigili urbani e uno alle guardie cozzuffile e poi si arrangiano loro. E se lo vedo io in corso di età, agisco di conseguenza. Però anche come mai non è stata attenta a tua moglie? Lo dovevo far togliere subito, lo doveva. Cioè come ha visto ora la reazione doveva non farlo subito, vuol dire che l'ha lasciata a scappo. Non so fa un cazzo mia moglie. Se l'aveva avuto io, Rugani non l'aveva musicata, chi non verrà arrivata a musicata, a parte che l'aveva avuto una pandemia da faccia, a chi su Rugani ne aveva avuto tutti i denti. Se è possibile, Natalice, non gliela... Se stai attento, non gliela avvicini, io non è che me la raccolta a nessuno. Non succede quello, bisogna stare molto attenti, bisogna stare. È un attimo, già sapendo che gli è successo quello. L'altra volta gliel'ha messicata e mi è costato 1500 euro, adesso per il momento mi è costato 100 euro in medicine, più 50 del coso, del veterinario. Adesso domani lo devo portare, torna al veterinario per controllare com'è la ferita. L'ha bucato in due prustini, l'ha bucato. Cazzo, se non mai te la vedi in culo. E infatti, proprio bagiccia chi non ha giù, mi sto corrompendo le balle a Viru. Posso rubare la nostra... No, la cosa deve cambiare. Ma bisogna stare attenti, quando si può attaccare bisogna stare attenti perché è un casino. Poi il mio è un cane piccolino, non è un cane né aggressivo né niente. E chi tu che è Maru, ed è Manno Buu. A peso mio deve essere anche cane gorso, cosa cazzo ne so. Io non l'ho neanche visto il cane, io ho visto il padrone chi è. Vedrai, a ha detto che c'era Biglia Puntiglia, ed io mi la Biglia Puntiglia a Criballo quando la c'ha, qua è dei Arugani. Allora cerca di portarlo tu. Scusa? Troppo forte la radio. Sì, forte, abbassala un pochettino. Sì, sì, ragazzi. Sono anch'io. No, se vuoi stare mai tranquilli in che cazzo di loro, cazzo, in vedo un posto di mesa sono capitato, cazzo, tutti una massa di passaggi, so. Infatti non ne posso vedere uno di questa zona. Aspettare quella scuola lì, eh. Il talento dei giovani. Tutto pieno di liete, cazzo, spacciatori, tarli, pagazzi, di dunia curori, vinne. Cosa vuoi qua? Se non ti dico di dentro, non si mettono in testa di metterceli dentro, eh. Di lampati da giappo in mare sarà sempre peggio, me. Ma non gli fanno nulla, questa gente non gli fanno nulla. Cioè, mi hanno detto che non è reato per non intervenire. Non hai capito? Adesso gli faccio l'esposto io. E se non basta anche io andare i carabinieri in questura buru. Voglio vedere se interveniscono questa gente. Se non intervengono mi arrangio io dopo. Meglio che intervengano loro, perché se intervengo io intervengo male. Sì, è un bravo mirino. Mi scusi cazzo, ma non glielo dire. Allora non dirà a capo. E chi tu dirà a capo a te se ti nade? Che non è possibile che si cose, cioè, ma che c'è chi sa mondetta, chi sa niente mondetta. Cioè, sono ancora in giro. Una persona che conoscita, vabbè, non voglio cantigare. L'ultimo canto l'ha fatto, è sempre in Chive, sempre in Chive, non ha fatto nulla ancora, cioè, o qualche cosa così, bomba, ed è sempre in Chive, eh. Ma cosa cazzo? Sì, lo so, tu cosa vuoi fare? Io gliel'ho minacciato, peggio per lui, se lui mette piede in corso Trinità, chi su di lei ci si piglia. Noi da quel tempo manco di si va. L'hanno trovato vendendo a questo miserabile gazzo. A chi subito che miserabile non è? Ci sei? Allora, cioè andare con creature e andare a vendere la roba, ma se tu lo fanno il migliore l'anno, cazzo, di meglio cazzo di. Cioè, meglio meglio cazzo la cetta di troppo in due, ma di cosa si fa vedere? Cioè, non mi frega niente, no. Non per mettere il volante, no? Non da me. Se sta sempre vendendo una cosa a un mio familiare, soprattutto a mio figlio, che è un figlio di piccolo. No, non ci mette, puoi essere più forte quanto vuoi, diventi, ma sai come diventi? A chi ti taglio le braccia, ma stai scherzando? E l'ultima volta che l'hanno arrestato, l'hanno trovato ai giardinetti vendendo la droga ai bambini. Dimmi tu, l'hanno arricciato e detto a rapura. La lampada si raggiava in mare, cosa cazzo chi sa niente di ricciare? In galera è buco. Ma cosa in galera? Tre o quattro genitori incazzati, dite genitori incazzati, lo pigliano e lo massacrano. Lo fate in chicina, prego, che dovrà più. Beh, questo chi subito? Ma dimmi tu i taglienti. Adesso domani mattina l'ho dentro. Sì, poco poco. Ma poco poco mi pone i piedi in corso Trinità per dare la bini di vostro baio a Edu. Io sai che non è da repentare, vedi, lì che c'è un gabbo. una volta è passata a chi non mi ha voluto giudicare e Gaira Rugani a chi sino vi avevi imparato da prima, adesso però non lo perdono più perché non lo adesso chi è. Mi tiro questa su sta cazzo che io dico cazzo sangue da una parte e lui non lo so. Lui abbiamo detto e un mentitante a parte, volete un mito un po'. Sì, avanti, intonato dalla medicina che l'ha dato la dottoressa. Adesso mi devono telefonare per questa relazione che mi devono mandare via email. Così la mando a quello là e poi domani mattina vado ai vigili urbani. Non posso riaccettare. Perché ci vuole l'esposta ai vigili urbani perché possano agire questi, mi capito la cos'è? Uno fa l'esposto. Non ti pure i problemi Natale, tanto avanti non si rimuove in paese. No, c'ho lo squelch, no, se no per non sentire nulla metto lo squelch. Sì, ma mi arriva un bel forte. Sì, magari sei più aperto di me tu, e la becchi più forte di me la propagazione, capito? Tu l'avrai visto, Sì, me lo posso immaginare. Cosa vuoi che ti dica? Ah, vai molto male, Lugani, ma cosa riparti mai? Non riesce neanche a mettere la zampetta in terra perché gli fa male. Capito? Però una taglia, cane, vuoi un tal messaggio? Cioè, vede qualcosa, nerudira, cazzo, nerudira e evita di morsicarlo. Cioè, fa contra che ci vuole, cioè, è sempre lì c'è la domanda, la taglia. Mia moglie non deve essere prima di buttare un cane, no? A chi? Mia moglie vi rubò un guinzaglio e anda con un guinzaglio, Rugani mio. Se non l'aveva tirato mia moglie, cazzo chissà cosa l'aveva fatto. Perché è un cane grande questo. E non vuoi la buona scusa, ma fatto di quella faccia. Se gliel'ho detto io, se ti sto dicendo, se ce l'avevo io il cane, che su cane era stato massacrato senza denti, te lo dico io, e lo battono non altrettanto, se si era girato. A chi se lo battono non si gira, vedrai che ha finito il posto qua. Poi gliel'ho detto, non vi buono i piedi, no, che non vi vieni più, mi, perché come se troppo ti sparo il cane, gliel'ho detto, proprio giallo giallo. Ma mi ha tirato, ma prima, non detto. È una mondezza lì su, no, non ti sicura, ma perché mi ha detto che si era pigliata a Puntiglia, va bene, bene a Puntiglia, vediamo i pigli a Puntiglia massacrati, cazzo, ma fai tu, mi pongo questi volti grossi, cazzo, si ricordi si parlerebbe la faccia, lo sai, ma non sa manco da onde arrivi nei ricordi. Rompi il cazzo di Timone, ma racconto un busciacca, voglio vedere se fa con dopo. Certo, lui voglio vedere se fa tiro dopo e se riesce a mangiare brodino, più di brodino di mammo senza denti, a chi ne li posso li cacciare con i denti ne li posso parare a poter parare la faccia lo massacro, mi sto dicendo finché non vedo sangue non lo mollo. Non c'è un cazzo da perdere io, però gli faccio fare una fine che cazzo manca Rigani. Merdaccia, cazzo. Ma quando mai non lo veramente? Si venite a fare di razzi, ci mandano quando mi hanno detto che noi era reato i vigili urbani. Aiuto! Sono così. Quello lo dicono per non fare un cazzo, mio. Perché a me quell'amico mio mi ha detto che è già è reato, cosa non è reato? Ma il cane glielo devono prendere perché è un cane pericoloso che cazzo aggredisce anche le persone non solo che gli animali. Cosa vuoi fare? Muglia, per carità, che gentaglia di merda. Ti sto dicendo dicendo a me, quando stavo in campagna, non mi conosceva nessuno, perché non andavo, non conoscevo nessuno, neanche io, perché mi facevo i cazzi miei in lungo e in largo e non volevo essere disturbato. Cazzo in chi si tocca giù, tu cazzo in una pogna, si tocca giù, da chi no che è una pogna. Cazzo, ma dimmi tu che in casa mia non so che padrono di fare un cazzo che voglio. Natalie, ora è dica di nanna, ora è via di una ragazza. Faccio che ci senti la telefonata di cagazzo della veterinaria, cosa cazzo mi dice, a chi devo dare i medicini pure, c'è un cazzo di Lugani, mi devo dare 55 pollici, e ancora non mi ha telefonato, va fra un po' con la telefona giù d'orra, allora mi incazzo a virus. Che ti graziate però, via. Quasi 9.35. No, ma 40 tra raggio. E sei 9.40, dai. Ah, era attenuato, sei 9.40 tu. No, chissà qualcosa. L'aveva che ha fatto dei vaccini. No, no, voglio salire l'antenna. Cosa tu? Ci ho salito l'antenna. Ah, adesso l'hai fatta ancora. E io l'ho cambiata. Come l'hai cambiata? Non c'era Ringo. C'era un Ringo, voleva passare a salire vecchio. Ah, ho capito. E l'altra l'hai smontata. E io ho messo quella. Infatti i risultati si vedono. Di tanti orari che non si muove, neanche l'altro. Ah, ma sta arrivando bene, anche la radio è forte, va benissimo. Cappa, di stazionario ma curato si muove. Attimo se ti dirà la radio vero. A noi dai occhi, alle pompa. Mettiamo il numero prima. Ehi, andava, stai bene, va benissimo. Cappa. Vediamo bene, dai. Sì, devo alzare un po' di più, devo salire dall'antenna. Sì, almeno ricevi meglio e trasmetti meglio pure. Capito. E andava. Già, facciamo il segnale di Gianni. Io? Sì, vabbè, qua arriva, tocca il DB, tocca. Forse non lo so, forse lui un po' più forte. Che Gianni? E di Gianni un po' più rosso. Però forse Gianni un po' più forte. Sì, vabbè. Io non usavo arrivo di più forti romatesse, ma andava così. Scappa, ci aveva attenuato quanto sei. Prova. Prova a attenuarmi a vedere, dai. 9.30 attenuato, quando torno tocca il DB, tocca. Quindi arrivo a te Gianni, no? Più o meno sì. K, andava. Più o meno, forse lui un po' di più, Boh, non lo so, Gianni arriva a 9.40 qua. No, meno che arriva un po' forse, ma forte però. Sono convinto che se avessi smettere arriverebbe a 9.60. Vabbè, io non sto scendo con tanti watt. No, non è per i watt, no, forse perché è più vicino anche. Sarebbe un tiro di schioppo da te, ce l'hai di fronte. Però non è che, forse come ha fatto l'antenna, non è che ci sia molta differenza adesso. Vabbè, qua arrivi bene, 9.40. Aspetta che provo l'altra radio a vedere. Ieri non venne più. Sì. Prova. Guarda a vedere, 1, 2, 3, 4, 5, 6, prova, 1, 2, 3. Non guarda di infaria. Come? Bene qua. Una bomba, Hai visto, ah? Che andava? Cosa hai visto? Questo è 680. Cos'è un Magnum? No, cos'è? Il Kenwood. Ah, sì, è vero. Scusa, ma prima stavo usando colore. Prima stavo utilizzando il Magnum. Ah, il Magnum. Vai, dammi. Ora! Non mi faccio smettermi. Tu ne hai ancora, Posso ancora unità. Grazie, fortissimo, sì. Ho detto se voglio posso ancora aumentare. Ho capito, ho detto si può molto forte qua, Molto, molto, molto forte. Quindi va bene, no? Ehi, e cosa hai fatto qua? Perché? Sempre un bel forte. Sempre uguale sto uscendo. Poi c'ha degli aghissimi che stai uscendo in chiesa. Gabriele, vieni qua! Con un girello gli rendi. Perché si sta giocando. È perché è contento. Quando erano i minori Bruno erano contenti, e tu? Allora, avevo un montone di casini, Non lo sai, ma non vanno si cresce, i casini aumentano. Speriamo fine di quest'anno di cavamini un po' per i debiti, che non aggiunge le balle bene, mi sa pagando. Io non mi ricordo tanto. Trattare, no, che Marano vi raccompagna. Va saltato dall'atti, non eccetera eccetera, che ha un mondo vero, ma pagare anche. Per carità. Perché mio padre l'ha reso un pagante. Beh, aspetta un attimo, eh. Allora, che si dice qua? Luia, e cosa ne può urgente? No, stavo controllando il VAT e il coso, perché è una stazionaria, ma non ne ho. Certo, anche la metti la moccata e via Milano, via. Lo bucaccione. Che schifo, cazzo. Mamma mia, dove abbia che sapone, abbia. Così da qui abbiglia tutta la riaga. Ma così poi la mamma sta scendendo di là, noi che sta rompata. Ed è accusa la terra. Magna! Che schifo. Per carità. Mi ricordo che... Cazzo, vabbè via. Ma di paese erano loro, sai che non mi ricordo. Ma che c'è un altro... Ho visto su... Su Facebook, invece, c'è un altro gruppo che si chiama Locanda, che anche stanno facendo danno anche fuori, no? Beh, tu, io già vi vuoi fare. Che schifo. Io già. Ma non c'è nessuno qua. Ah, tu vai. Certo, poco fa è andato Natalino. Attento, Natalino. Era arrabbiato che la musica trova a Raus. Un cane bastardo che c'è in zona. È già la seconda volta che glielo musica. Bastardo, però, cazzo. Giulia, per carità. La verità è che mi ha raggiunto un cazzo, La riesce evitato, cioè. Rubè dove non può fare niente, capito? Perché quello non va a portare la museruola in quel cane lì. Capito? Basta così un colpo di roccia a capo, verrà che si può fare. Purtroppo, è così. Non è giusto però, Lo so che non è giusto. E cosa vuoi fare? Lui, Giungelli, Un casino, Napoli. Ma tu mi dai un cane, mi pare, no? E io c'ho il cocker. Non mi dai in casa, per le campagne. Ah, c'è una campagna tu. In casa era un casino, mi mandavano i bisalisetti a buttarne addosso, lui dal letto dal caldo al freddo mi ammazza. E cosa vuoi fare? Cioè, che ti mettono in casa? E in casa non ci butti niente, anche perché qui c'è il palazzo, non perdono le palle, capito? Perde un po' di pelo quel cane, un bel. Passo è bravo. Sì, è bravo, però perde un po' di pelo e quindi dalle scale di tubero è un pro, quindi per evitare, vabbè, già sta bene in campagna comunque, è riparato sotto la tettoia, c'è la sua cuccia. Ma intanto in casa sta sempre, c'è sempre più caldo, non si muove, cioè almeno lì gira, fa. All'ombretto si muove, no? In casa c'è già sempre più caldo, mangia vedrumia, cioè è lo già. È la vita da cane proprio. Appunto, la vita da cane proprio. Vita da cane. Io adesso. Ma tu fatto una farina tu, una salsiccia. Ma come è uscita? Sono una bomba è uscita. Oh, allora voglio provare a farla. L'umano era a posto, secondo come è andata. Però il bagno glielo preparavo la mattina, a me lo riposa di più. E infatti io l'ho fatto stamattina presto, verso le 8. E poi a mezzogiorno le 2 l'ho infornata nel forno. Ma esce da una bomba, esce da una virgola, oliva. Ma dove l'hai messa tu a centro forno? Nel forno elettrico tu l'ha messa, a 200 gradi. Non l'ha lasciata 50 minuti. Ho visto che era bella dorata. Era più calata. Ma dove? Bella dorata, bella dorata uscita. E adesso pure io la devo rifare. Se no si brucia, si è bruciata poi, è un casino. Poi te ne accorgi quando è fatta, quando vedi che è bella dorata e c'ha quelle bruciature a punti di neri, vuol dire che è fatta, che cosa? Ne ho messo 7 cucchiai di olio, ne ho messo. Sì, 7 cucchiai e poi la giri, no? La metti nella teglia e la giri un po'. Una volta che l'hai girata ce l'hai fuori, forno a 200 gradi e vai alla grande. Ma dico, ma ventilato o statico? Cosa? Il forno va ventilato o statico? Ma il mio è statico, scalda sotto e sopra. Non va ventilato il forno per fare la painetta. Ragazzi, se ce l'hai ventilato va bene, il mio non è ventilato e esce lo stesso, non cambia il discorso. Perché mi hanno detto ci vuole il forno statico. Il mio è statico, è elettrico, ha limitato di 50 gradi. Ha voglia che cucini la fai. Ha voglia che cucina la fai. Capo, io domani mi sa che me la preparo da presto. Io ne ho fatto 2 teglie. E quanto l'hai fatto molto di più l'impasto? 400 grammi. Ho fatto un impasto di 400 grammi. Praticamente ho messo un litro e 200 grammi di acqua e poi sono 6 e poi l'olio te lo basi tu, ogni teglia ne metti 6-7 cucchiai. E la giri, capito? Hai fatto l'impasto. Addirittura io ce le ho tornate tutte e due assieme le teglie. Io ho fatto 200 di farina di ceci, 800 di acqua e ho messo un cucchiaio di sale. No, di acqua ne puoi mettere 700, anche 600 va bene di acqua. Un po' di meno? Ne metterò un po' di meno, ne metto. Se ne fai due, fai 600 più 600 e sono 1200, capito? Praticamente un litro e 200 e poi cucchiai di sale, te li dividi un cucchiaio da uno e un cucchiaio dall'altro. L'olio lo moltiplichi per due sempre, 6 e 6 e va bene, anche 7 le puoi mettere di olio, che è meglio. E la giri bene e poi la forni. Addirittura le puoi formare tutte e due teglie, io ne ho messo 2 e sono usciti tutte e due una gallonata. Io ne faccio una perché mi fa effetto brutto come la farina di ceci. Vabbè, io ne ho fatto 2 perché sono di quelle teglie piccole, non sono grandi, capito tu? Non è molto grande la mia. Allora ci ha giocato lui, vedeva ancora, figurati, capì, poco fa mi hanno mangiato una fetta, allora mi mangio la fetta, mi sono con i piedi. Ma non è fatto mangiare già la materia. Lo so, ma è un bel pesante, se ne mangi in rotti, lui, troppo pesante anche tu. Però metto un po' meno di acqua, metto qualche cosa meno di acqua, forse esce un po' meglio. Tu invece di 800 metti nel 700, anche 600 va meglio, con 600 dici perfetta. Poi dipende lo spessore lo vedi tu. Se la vuoi più sottile te la puoi dividere anche, capito? Io ho provato con i 700, magari c'è un po' più poco per cucinare anche meglio. Adesso lo scorso, ma la faccio domanda con solo libro. La cucino la sera. Te la prepari, la lasci un bel po', più la lasci meglio è. Se invece di 4 abbia da capo di 2, 8 ore, dipende. Anzi, pure meglio esce. Se c'è pure più buona esce. E se pongo una salsiccia, è buono, quella ziota. La giri bene, non ce l'hai il frullatore. Come fanno la giro? Io l'ho girata col frullatore, va via le fruste, ogni metto le fruste. Ta ta ta. Ha giocato velocissimo a falla. io faccio di tanto lo sciamano. Anche quella va bene. Mi dà mamma a me, mi dà proprio per dire questa cosa. Quella lì va bene lo stesso. Non ne hai problemi. Che la moglie mi ha preso una teglia, non le fai buttare in occhio, se muoio mia moglie, cosa? Una teglia quelle piccole già basta. Tanto quando ne fai due, la lui... una potenza da freddo non si più o la devi riscaldare, ma per la fede vuole fatta e mangiata subito. Rubizzino, ma non mangia anche la fede anche per farello, però non è che non li mangia, se la mangiamo la mangiare ieri. E appunto per quello. Però provo a punire un poco di manco di Eva. Mettine, te l'ho detto, con 600 vai alla grande. La faccio riposare, almeno tutta la mattina, dalla sera la posso. Esce una bomba. Chiappa, a chi maledito che più riposata è più buona è. Vabbè, io faccio così, io l'ho fatto allora, l'impasto l'ho preparato alle... mi sa che erano le 8 e poi l'ho tornato alle 2. Bomba. È uscita buonissima. Prima mamma, domani me ne rimane un po' di fare da ricercio e la faccio, perché ne ho ancora. Ma me ne sono rimasti ancora 300 grammi. E anche a me. Dovrei farcela. E a voglia. Sono mezzo chilo, avrà avuto un grammo di impasto. Se non ne fai due, fai 250. Bello. E andavano mattessi. Anche perché non è che la puoi lasciare più di tanto questa farina quando una volta che la apri, la devi consumare. E la chiusa grande bella, giù. L'ho preso la Spadoni, quella lì ho preso. L'avrò presa io. Ah, questa è una gazzata. 2,50 €, tu pensa. Cosa cavolo guadagnano questi? Non vai di là, e da qui me la fate in cucina. A che pone non vai bene, ma tu? Vedi, quello buono non ti nabizzi, a che te la se ne fa bene. Una parete che fate la faccina alle mani, io vado giù. Tu figurati quanto guadagno. E tu pensa una cosa, pensa che questi, c'è una cosa impressionante, come si dice, pensa che qui c'è cosa tutto guadagnano, che dici molti di questi stanno anche alla stagione estiva, stanno anche senza lavorare, immagino soprattutto Benito, immaginiamo di dinare che sono incascente. È un bel sud, un bel, perché c'è poco materiale, un bel guadagno, poi il forno a legna, lasciavi buoni in affalli, 3 cubi, 4, 3 cubi, 3. Allora? Mica c'è l'inforno una mattina, ne mettono 5, dipende dal forno. Ci sono forni che ci stanno anche scintille dentro. Capito? A voi di avere i vaseri. Cioè guadagna un montone di dinari caliente. Un bel di soldi guadagno, un bel. C'è spaccarità, guarda. La poi c'è la procura giustizia, la pago più di più, Se fanno pagare tutto, fanno pagare tutto quello che ti fanno pagare. Allora, porta, cucinata e tutto, cosa sarà? Neanche 5 euro di coso sarà. E per tutto guadagno. Fate il conto che una teglia è quella grande, 18 euro. Se da qui rimuove la giustizia e roba del genere, ci vuole dare di cose a 20 euro. E cosa si muove in busciaccara? C'è un po' di dinamme. Un bel. Guadagnano un bel. E poi se c'è quello bravo che lascia fare, si attira la clientela, capito? E ne prende ancora di più. Questi hanno fatto dinamme. So. Forse è l'unica cosa che guadagni dalla fede. Ma pure dalle pizze guadagnano. Alcuni sì, alcuni quando c'è la Fenice dalle pizze, ma pure la pizza già guadagna tutti i dinni. E tanto ha prodotto la loro, però guadagna. Se hanno bella andata travagliano. Tu tu fate un conto con 50 kg di farina tanti bizzi vai. Fate un calcolo. E lo so, Giulia. Ma è un bel, un bel, un bel. E poi loro non la pagano quanto la pagano noi, no? La cosa, la farina di gecio, minimo non la pagano 2,50, no? Minimo, se la pagano, la pagheranno a 1,80, la pagheranno. E perché la compra una sciacca da 50 kg? E allora? Figura di vedere che fatene, oh via. Un bel soldi, un bel. Chi è che vuole entrare? Avanti, forse gente di fuori, capito. Tanto ce ne intendi qualcuno. Io oggi tutta la cantera di prende a burotto, vedi? Figurati. Cappa. Da 50 chi vai a Igeccio cosa guadagnane? Non lo so a tu, però io penso che guadagnani più di cos'è tu euro. Sì. Io penso che tocchino 1.000 euro, minimo. Beh, contra quando ci vuole in cosa, 1.000 euro se li fanno in una sera. Sì, fai, in una sera verranno a fare 2.000 euro, se no di più. Ma perché magari c'è a pagare la luce, c'è a pagare la legna, c'è a pagare il personale e cosa? Ma già ci esce. Ma se non sarebbe convenuto, non ne avrebbero fatto, capito? Vuol dire che conviene e diciamo che rende pure. Io non credo, via. Chi ti non travaglia nei gratis, tranquillo tu. Poi chi sono del monte che si appende a poco, chi soffira, a me l'ho comprata, non mi è piaciuta assai la famosa. La sua compra, la sua che è stata pure la moto, me l'ha giubilata. Ma non mi è piaciuta molto. La verità ti dico che io l'ho comprata e non ne piglio più. Perché ultimamente l'ho presa ed era allagata a Ruzzo. E allora, e poi mi ha regalato un po' di mare. Era nauseante pure. Almeno quella che faccio io so come la faccio, capito tanto. Chissà che non ti tratta niente, dai tu, sa che è barato. Ho un'esanza, dico di questa poco, mica metto l'olio d'oliva, poi, adio mai. Ma questo? Va, per carità. Io ultimamente la giubilata era tutta una galla di olio, ce l'avevo tutta la notte sullo stomaco, non riuscivo a digerirla, qua un casino che non ti dico. Non so, voglia. Tu vado di mare. Poi la penisce non è fatta bene. A digerirla ti si può, ti si pianta sulla punta dello stomaco, è un casino tu. Cappa. Ma se una volta l'abbiamo grigliata. Se una volta l'abbiamo grigliata, in cibi ma stessi, ma caridaica. La cama ha cominciato ogni mal di banca la notte, mi di la Gianni a vedere se entra, gli altri lui di Buruetto, la dopo mangiata ma da voi. Ma già lo so perché l'ha fatto pure a me quel discorso lì. Io sono stato 3 giorni a mal di stomaco dalla fene, capito? Perché era chissà fene allagata usci di olio, 3 giorni. La moglie mi ha detto non ne veglia più di chissà cosa, mi ha detto, non me la rega più perché. Ma poi è un buono che mi abbiamo mangiato. Poi ti posso dire una cosa, 3 giorni mangiando riso in bianco. Caccarindaiga. Salsiccia, chissà che salsiccia buona da buio. Secondo me è salsiccione, neanche salsiccia. No, non mi sa salsiccia di cosa buona, salsiccia di una spina. Io gli ho messo la salsiccia e l'ho preso via a cosa, a Burgos, proprio salsiccia fatta da loro di cinghiale, ma tu devi assaggiarla come te. Ma chi sei buona la salsiccia? Fumigata, proprio buona di sapore anche, capito? Te la fanno pagare a 18, però è buona vino, ce la vale. E tu ti raccompri quella, la paghi a 7 e ti raglietti. Ma per carità, no, ma perché ce ne sono buone anche al supermercato. Voi vi sapete andare, quindi è buone al supermercato. Sì, c'è quella di Murru, c'è quella di Cinghiale, dipende cosa prendi. Ecco, c'è un po' di più puro. Quindi c'è una banana, che è buona, ma non c'è niente di speciale per me. Il discorso è sempre quello, chi poco spende poco ha, ma su tutte le cose, non solo con quello. Non vedi niente, no, che a buono chi sa di uno spizza e cosa a poco, vedo una poetana. Ah, infatti. Io ho assaggiato anche io, a meglio che abbizzato. Figura di Goya, per carità. Eppure non sarebbe dovuta essere così, perché io la roba me la sto pagando, mi devo dire roba buona. La roba buona la paghi, Antonio, quando te la rifai. Appunto. Veramente, se poi vai a risparmiare. Io ti dico una cosa, mia, tu. Che io sono andato all'Eurospin, ho visto i prezzi. Io compro sempre AMD, si compra meglio di Eurospin. Siamo lì, siamo. Però si fa, io so, all'Eurospin di Burla Carrebrecca, buona fatta dal martellaggio. Già lo so, ma anche AMD c'è quello di Canica che c'è il macellaio e te la taglia davanti. Se tu vuoi la carne di cavallo, te la fai tagliare da lui, da lì. Io l'ho preso un paio di volte, ti posso dire che è tenera tenera. Buona. Ce l'ho comprata qua giù, per carità, sembrava cingomma. Cazzo, ti dice che niente un paragarri. Ma non voleva andare in Kiwi, no. Già perché anche tu un Armonte che è bravo. Mi ha detto, tenera, ha detto, ma tenera. Sì, tranquillo, ha detto, guarda, se tu c'è tenera a fare, uè. Vabbè, la giubiliata, 12 euro. A casa la cucina, la